La liturgia non può avere scopo alcuno anche per questo motivo, perché essa, presa in senso proprio, ha la sua ragion d'essere non nell'uomo, ma in Dio. Nella liturgia l'uomo non guarda a sé, bensì a Dio. Verso di lui è diretto lo sguardo. In essa l'uomo non deve tanto educarsi quanto contemplare la gloria di Dio. Il senso della liturgia è pertanto questo: che l'anima stia dinanzi a Dio, si effonda dinanzi a Lui, si inserisca nella sua vita, nel mondo santo delle realtà, verità, misteri, segni divini, e così si assicuri la vera e reale vita sua propria. Ci sono due passi molto profondi nella Sacra Scrittura che avviano alla soluzione definitiva di questo problema, per non dire che pronunziano la parola liberatrice. L'uno sta nella visione di Ezechiele. Questi fiammeggianti cherubini andavano diritti dove il vento li spingeva, né si voltavano nell'andare. Andavano e venivano come la vampa della folgore. Andavano e stavano e si alzavano dal suolo. Il fruscio delle loro ali assomigliava al mormore di molta acqua, e quando si fermavano abbassavano nuovamente le ali. Come sono senza scopo codeste creature, come sono addirittura sconfortanti per uno zelatore della funzionalità raziocinata. Essi sono soltanto mero movimento possente e maestoso che si dispiega come lo spirito lo sollecita, che null'altro vuole se non esprimere l'intimo essere dello spirito, rivelarne esteriormente l'intimo fervore e l'impetuosa forza. Ecco una viva immagine della liturgia. E in un altro passo parla l'Eterna Sapienza e dice: «Io stavo presso di Lui intenta ad ordinare le cose tutte, ed ero tutta compiacenza giorno per giorno, ricreandomi, ludens, in sua presenza ogni momento, ricreandomi sul globo terrestre». Questa è la parola decisiva. Il Padre Eterno si compiace che la Sapienza, il Figlio, la pienezza assoluta ad ogni verità, dispieghi dinanzi a Lui in un'inesprimibile bellezza questo contenuto infinito senza alcuna mira. A che dovrebbe Egli mirare? Ma nella pienezza più definitiva del senso, in mera e schietta gioiosità di vita, Egli gioca dinanzi a Lui. E questa è la vita degli esseri più elevati, degli angeli. Essi sono senza scopo, come lo Spirito li sollecita. Si muovono dinanzi a Dio in un senso misterioso, sono dinanzi a Lui un gioco e un canto vivente. Anche nell'ambito delle cose terrene vi sono due fenomeni che accennano alla stessa tendenza: il gioco del bambino e la creazione dell'artista. Nel gioco il bambino non si propone di raggiungere nulla, non ha alcuno scopo, non mira ad altro che ad esplicare le sue forze giovanili, a espandere la sua vita nella forma disinteressata dei movimenti, delle parole, delle azioni, e con ciò a crescere, a diventare sempre più perfettamente se stesso. Senza scopo, ma piena di significato profondo, è questa giovane vita. E il senso non è altro che questo: che essa si manifesti senza impedimenti nei pensieri, nelle parole, nei movimenti, nelle azioni, si renda padrone dell'essere suo, semplicemente esista. E giacché non mira a nulla di particolare, giacché si dispiega così spontaneamente e senza coercizioni, appunto perciò anche l'espressione riesce armonica, la forma limpida e suggestiva. Il suo gesto si tramuta da sé in ritmo e immagine, in rima, melodia, canto. Questa è gioco, espandersi disinteressato della vita che prende possesso della propria pienezza, e che è piena di senso anche nella sua mera esistenza, ed è bella quando la si lascia a sé, quando non vi vengono introdotti intenti riflessi con precettistica malilluminata, pedagogizzante, rendendola in tal modo innaturale. Con l'avanzare degli anni si presentano anche le lotte. La vita si sente agitata da conflitti e odiosa. L'uomo si pone dinanzi agli occhi ciò che egli vuole, ciò che egli deve, e cerca di realizzarlo nella sua vita e nell'essere suo, ma qui sperimenta quante forze vi contrastino e constata quanto di rado egli è veramente ciò che dovrebbe e vorrebbe essere. Questa contraddizione tra ciò che egli potrebbe essere e quello che è in realtà, cerca di superarla in un altro ordine di realtà, nel mondo irreale dell'immaginazione, nell'arte. Nell'arte l'uomo cerca di ristabilire l'unità tra ciò che vuole e ciò che ha, tra ciò che deve essere e ciò che è, tra l'anima che è dentro di noi e la natura che è fuori di noi, tra il corpo e lo spirito. Tali sono le creazioni dell'arte. Non hanno dunque alcuno scopo istruttivo, non mirano a insegnare determinate verità o virtù. Nessun artista si è mai proposto questo. Nell'arte l'artista non mira ad altro che a risolvere questa tensione interiore, a dare espressione nel mondo dell'immaginazione a quella vita superiore a cui anela e che nella realtà raggiunge solo approssimativamente. L'artista non vuol altro se non dare una realtà esteriore al suo essere intimo e al suo anelito, assicurare alla verità interiore forma concreta. E anche chi contempla l'opera d'arte non deve proporsi null'altro che di soffermarsi in essa, respirarvi, muoversi liberamente, prendere consapevolezza della parte migliore del suo essere, anelare al compimento della propria brama intima. Non deve perciò riflettere sopra con imbronciata critica raziocinante o cercarvi dottrina o savi ammonimenti. Ora, la liturgia fa qualcosa di ancor più elevato. In essa viene offerta all'uomo l'occasione di realizzare, sostenuto dalla grazia, il senso più singolare e proprio del suo essere, d'essere quale egli dovrebbe e vorrebbe essere in conformità alla sua vocazione divina, un figlio di Dio. Nella liturgia, dinanzi a Dio, egli deve allietarsi della sua giovinezza. Questa è certamente una cosa del tutto soprannaturale, corrispondente però, nello stesso tempo, alla natura intima dell'uomo. E poiché questa vita è più elevata di quella a cui dà occasione ed espressione alla realtà consueta, essa trae forme e immagini adeguate da quel dominio nel quale soltanto le può trovare, vale a dire nell'arte. Essa parla in ritmi e melodie, si muove con gesti solenni e misurati, si riveste di colori e paludamenti che non appartengono alla vita consueta, si svolge in luoghi e momenti che sono stabiliti e organizzati secondo leggi superiori. Diventa così, in un senso più elevato, una vita filiale e infantile in cui tutto è immagine, ritmo e canto. Questo pertanto è il fatto mirabile che si offre nella liturgia. Arte e realtà diventano un'unica cosa nella condizione soprannaturale del figlio e fanciullo insieme, sotto lo sguardo di Dio. Ciò che altrimenti è dato solo nel regno dell'irreale, nell'immaginazione artistica, vale a dire le forme dell'arte come espressione della vita umana pienamente consapevole, qui è realtà. Le forme dell'arte diventano la traduzione espressiva di una vita reale, sia pur soprannaturale, e anche questa ha un elemento comune con quella del bambino e dell'artista, è libera da ogni scopo e perciò appunto piena del senso più profondo. Non è lavoro, ma gioco. Fare un gioco dinanzi a Dio, non creare, ma essere un'opera d'arte, questo costituisce il nucleo più intimo della liturgia. Di qui la sublime combinazione di profonda serietà e di letizia divina che in essa percepiamo. E solo chi sa prendere sul serio l'arte e il gioco può comprendere perché con tanta severità e accuratezza la liturgia stabilisca in una moltitudine di prescrizioni come debbano essere le parole, i movimenti, i colori, le vesti, gli oggetti di culto. Hai tu veduto mai con quale serietà i bambini stabiliscono le regole nei loro giochi? In che modo deve svolgersi il loro girotondo? Come tutti debbano tenere le mani, che significhi questo bastoncino o quell'albero. Tutto ciò appare sciocco solo a chi non avverte il suo significato o senso e sa vedere la giustificazione d'un atto soltanto negli scopi che se ne possono addurre. E non hai letto mai, oppure direttamente sperimentato, con quale spietata serietà l'artista stia al servizio dell'arte, come egli soffra sotto la parola che non si presenta adeguata all'idea, quale padrona esigente sia la forma. Qualcuno crede seriamente che l'artista si assoggetterebbe alle mille emozioni, alla febbre ardente della creazione, Se con l'opera sua non mirasse ad altro che a dare ai lettori o agli spettatori un insegnamento che avrebbe potuto esprimere non meno bene in un paio di frasi trovate senza fatica, oppure in qualche esempio tratto dalla storia, ovvero con alcune fotografie ben azzeccate? Certo no. Essere artista significa lottare per esprimere la vita profonda affinché, espressa che sia, essa possa esistere, e null'altro. Ma non è già molto questo? È niente di meno che un'imitazione della creatività divina, della quale si dice che abbia fatto le cose ut sint, perché semplicemente esistano. La stessa cosa fa la liturgia. Anch'essa ha cercato con cura infinita, con tutta la serietà del bambino e la coscienziosità rigorosa del vero artista, di dare espressione in mille forme alla vita dell'anima, vita santa alimentata da Dio, mirando a null'altro se non che essa vi possa dimorare e vivere. Con severissime leggi essa ha regolato il santo gioco che l'anima svolge dinanzi a Dio. Se vogliamo attingere il nucleo intimo di questo mistero, dobbiamo riconoscere è lo Spirito Santo, lo spirito del fervore e della santa disciplina che ha potere sulla parola. È esso che ha regolato il gioco che l'eterna saggezza dispiega dinanzi al Padre Celeste nella Chiesa, il suo regno sulla terra. E la sua delizia, pertanto, sta nell'essere tra i figli degli uomini. Può comprendere la liturgia solo chi non si scandalizza di questo, come ha fatto innanzitutto ogni razionalismo. Agire liturgicamente significa diventare, col sostegno della grazia, sotto la guida della Chiesa, vivente opera d'arte dinanzi a Dio, con nessun altro scopo se non d'essere e vivere proprio sotto lo sguardo di Dio. Significa compiere la parola del Signore e diventare come bambini, rinunciando una volta per sempre a essere adulti che vogliono agire sempre con finalità determinate per decidersi a giocare come faceva Davide quando danzava dinanzi all'arca dell'alleanza. Può certo avvenire che persone troppo assennate, le quali con la piena maturità hanno perduto la libertà e la freschezza dello spirito, non lo comprendano e ne facciano argomento di scherno. Ma anche Davide dovette sopportare che Micol ridesse di lui. Il compito, pertanto, della educazione liturgica comprende anche questo aspetto. L'anima deve apprendere a non vedere dovunque scopi, a non essere troppo sensibile ai motivi utilitari, troppo prudente, troppo adulta, bensì deve sapere anche vivere semplicemente. Essa deve apprendere a liberarsi, almeno nella preghiera, dalla irrequietudine dell'attività utilitaria, imparare a essere prodiga di tempo per Dio. Deve trovare parole, pensieri e gesti per il santo gioco, senza domandarsi a ogni momento a che scopo e perché. Non voler far sempre qualche cosa, raggiungere qualche cosa, qualcosa produrre o ottenere di utile, bensì apprendere a fare in libertà, bellezza, santa letizia dinanzi a Dio il gioco da lui regolato della liturgia. Da ultimo, anche la vita eterna non sarà che il compimento di questo gioco. E chi non comprende questo potrà afferrare poi che il compimento celeste della nostra vita è un cantico eterno di lode? Non finirà costui per rientrare nella categoria delle persone attive che trovano inutile e noiosa tale eternità?